Produttore di se stesso e capitalista sono in lotta. Dun dun. Produttore di se stesso e capitalista sono in lotta. Dun dun. Senza espropriare i produttori è impossibile quel tipo di lavoro. Senza espropriare i produttori è impossibile sviluppare quel lavoro. Se la classe operaia manca non si può accumulare. Se la classe operaia manca non si può accumulare.